Questi inviti a rinnovare le credenziali, ad aggiornarle, che vengono fatti in queste forme così anomale, queste mail, sono tutte dei tentativi di truffa, perché non bisogna mai e poi mai rispondere. E nel dubbio non rispondere, perché il problema è proprio questo. Il minimo dubbio non rispondere. Qualunque invito di questo tipo è anomalo, è illecito e quindi non rispondere. Detto questo, l'operazione è stata complessa perché c'erano stati una serie numerosissima di tentativi di phishing, le credenziali erano state rubate, quindi erano stati rubati i codici di utilizzo dei conti. E sono stati fatti diciamo, dei lavori di contenimento da parte nostra in strettissima collaborazione con i gestori dei sistemi che hanno permesso di limitare i danni, di bloccare questo iter criminoso in corso e di evitare perdite finanziarie notevolissime per gli utenti. Sono stati tuttavia prelevati più di 2 milioni e mezzo di euro, quindi diciamo una buona parte di questo tentativo di phishing è andata a buon fine. Sì, una parte sì, però calcolando la rete che era stata allestita dall'organizzazione, come ben saprete parliamo di circa 40 persone arrestate, oltre a un sacco di altre denunciate, quindi una ramificazione, vastissima, il danno inferto dall'organizzazione è stato notevole, ma sicuramente le quantità del danno sarebbero state enormemente più ampie se non ci fosse stata questa attività di contenimento, tutta una serie di accorgimenti tecnici che abbiamo posto in essere insieme ai gestori.